Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Innaggio fatto un pazzo da studio e mi fa pigliare o mi fa sparare. A questo momento voce da luce, un coro e arrabbiamento. E vi posso assicurare una cosa. Ci ripigliamo tutta quella che è un nostro. Tutto quanto teniamo una ferita. Un'umiliazione, un morto a chiagnere. La mano che ci ha fatto male è sempre stessa. E sa bastano. Casa nostra è una bomba in esplosa, Gennaro. La miccia a mano ha tenuto tuo padre e Ciro. Sì! Ciro non ci faccio più. Quando permisci? Tu sei meglio tutto quanto che le hai fatto per stare a sta mamma. Dopo che è a sta mamma? Non è banale la riflessione che la nostra più fulgida eccellenza nel campo della creatività, dell'intelletto, della produzione televisiva sia legata a un brand nazionale che si chiami Camorra. Non lo dico con scandalo, anzi, io mi sono guardato ieri le prime due puntate della seconda serie di Gomorra su Sky Atlantic, me sono guardate senza sottotitoli perché volevo scogliermi nell'originale. Ho capito quello che può capire una persona che non appartenga all'area geografica in cui si parla un napoletano così stretto, così connotato. Mi sono fatto una mia idea che è vero, è indubbiamente una produzione dal punto di vista tecnico della narrazione di grande pregio, ma questo già lo sapevamo. È Gomorra la serie Sky più vista in assoluto da quando esiste la Pay TV da noi. È stata venduta all'estero, gli inglesi ne sono entusiasti. Il Guardian dice che è paragonabile ai film di Scorsese, tipo I Bravi Ragazzi. L'Independent dice che è paragonabile a Tarantino. I tedeschi pure ne sono appassionati. Der Spiegel dice: dimenticate Sopranos, ecco i Savastanos. Savastano è la famiglia che diciamo su cui si impernia tutta la prima serie, anche la seconda serie di Gomorra. Io questa mattina vorrei capire innanzitutto quante persone l'hanno seguita, di quelli che mi ascoltano, qual è stato il loro parere, perché ne sono appassionati. Vorrei fare una riflessione un po' più profonda, e lungi da me ogni lettura di tipo etico, moralistico, che è scandalo, perché ai tempi di Andreotti che diceva che non bisognava far vedere la piova in televisione che dava una cattiva immagine dell'Italia. Non mi interessa questo, non è in questo momento alla mia attenzione, però vorrei capire in realtà, perché lo trovo singolare, che questa serie in realtà tratta il fenomeno Camorra come se fosse un fatto di costume, come se fosse un racconto paragonabile, non so, al Signore degli Anelli, di un mondo mitico, lontano, con le sue metodologie, con i suoi rituali, i suoi costumi, i suoi modi di fare, le sue armi. Sembra un bellissimo gioco di ruolo, come se non fosse in realtà una lettura iperrealista di qualcosa che è accaduto e sta accadendo tuttora in Italia. Qual è la conclusione? Non bisogna farlo vedere, bisogna nasconderlo, bisogna impedire che all'estero abbiano di noi questa buona immagine, cattiva immagine, mandiamo soltanto telefilm e serie che parlino di santi fanciulli, di edificanti figure di madri, di papi, di santi e di stigmatizzati. No, non è questo che voglio dire. Voglio riflettere, voglio capire, voglio vedere perché ci piace tanto, quanto influisce sul nostro costume, quanto il taglio di capelli nuovo di Jenny Savastano influenzerà i giovani delle periferie d'Italia e non soltanto quelli delle zone interessate al fenomeno trattato la Gomorra. 800 24 0024. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Teniamo 4 soldi in una sacca. Ci facevano un sacco di film. E invece guarda mo, tengo la femmina più bella romana vicino a me. Oh, ma tu hai capito tutto quello che hai già fatto per arrivare fino a qua? Non mi posso fermare proprio mo! Ti fermi! Oh, ma tu sei pazzo! Eh? Sei pazzo! Tu sei pazzo! Sei pazzo! Oh! Calma! Calmati! Calmati, dai! Calmati! Calmati! Questa è la fatidica scena del ristorante in cui già si capiva che Ciro Di Marzio avrebbe fatto fuori la moglie, che già cominciava a avere qualche tentennamento, perché aveva capito che l'ascesa vorticosa verso i vertici del controllo delle aree da parte del marito di Ciro, che è uno dei due protagonisti, prima l'amico fedelissimo, il tutore di Jenny Savastano, poi diventerà il suo peggior nemico. Beh, ha capito che non era aria, ha capito che l'ha portata sì al ristorante per spiegargli che tutto quello lo faceva per lei, come ogni boss in ogni classica rappresentazione della mafia. Dice, vedi, eravamo con le pezze al culo, oggi siamo questo, sono quasi arrivato a un passo dal vertice dei vertici, lo faccio per te. Lei ormai era già andata, aveva già capito che in realtà era la distruzione, lui la porta in spiaggia. Lei ha un nuovo attacco isterico e lui la strangola, l'ammazza, ma tanto avrebbe dovuto farlo, già gli era stato detto che quella donna era pericolosa. Beh, il primo sms che mi arriva qual è? È quello di Luigi da Bergamo, dice: la scena più bella quando ha strozzato la moglie petulante, ah, quanti vorrebbero farlo. Ecco, questo non dovrebbe istigarmi a dire, ah, vedi, è un cattivo messaggio, no, però capisco che quello che è una radicale e vigliacca soluzione di un problema familiare, ma familiare nel senso di famiglia mafiosa, non tanto di famiglia, viene considerato un gesto indifferente. Siamo entrati in una sorta di videogame, non siamo più nella realtà, stiamo rappresentando qualcosa che non esiste. 800240024, che ne pensate di Gomorra, la serie televisiva? Enrico, buongiorno. Buongiorno. Si chiama Fiction. Però purtroppo chi vive a Napoli come me si rende conto che Fiction non è, allora è difficilissimo stabilire qual è il confine tra la realtà e la finzione televisiva. È veramente angosciante, secondo me, vivendo una certa realtà, assistere a certo spettacolo televisivo. Non entro nel merito che possa essere educativo o diseducativo, semplicemente ti lascio addosso un'angoscia perché capisci che non c'è frattura tra quello che c'è sullo schermo e quello che c'è o può esserci davanti ai tuoi occhi oggi, domani. Ecco Enrico, vorrei saperlo proprio bene. Io le dico, ho avuto difficoltà a capire addirittura la lingua, non ho voluto mettere i sottotitoli perché mi sembrava limitante, anche perché stavo su Sky Go e me la vedevo col computer, quindi non c'erano i sottotitoli. Quindi per me era come vedere qualcosa di un mondo lontano, ipotetico, mitico, immaginario, ma facendo uno sforzo di finta indifferenza, naturalmente. Mi dice per lei invece, vedere questa Fiction, quanto assomiglia a vedere quello che si vede affacciandosi alla finestra? Ripeto, non c'è confine, almeno, è chiaro che sto estremizzando il discorso, ma poi nemmeno tanto. Non c'è confine tra la Fiction e la realtà. Per me la Fiction deve avere, ecco, dal nome stesso, deve avere degli elementi di finzione che la rendono contraddistinguibile. E, ecco, nel suo caso la distinzione è nella lingua, perché magari non la percepisce e immagina che sia qualcosa di lontano. Assicuro che è un problema che ho anche discusso con amici, ci siamo confrontati, è sentito, ti resta sulla pelle questa roba, è come se si mettesse in luce qualche cosa che tutti noi napoletani e dell'Interland sappiamo che esiste, ma quasi ci illudiamo non esista. Lì Gomorra ce lo ributta addosso, dice, ecco, voi siete questo, non siamo solo questo naturalmente, ma siamo anche questo. Ciascuno di noi può incontrare Ciro Savastano, può incontrare Jenny, può incontrare uno dei personaggi, uno dei guaglioni, e sono così, esattamente come sono rappresentati. Purtroppo sono esattamente come sono rappresentati. Assicuro, quando passano gli sciami di scooter che vanno allo stadio San Paolo a due a tre persone senza casco, non sto, io sono un napoletano che ama Napoli, non sto buttando la croce sulla città e non sto estremizzando, ma invito chiunque abbia onestà intellettuale a guardare lo sciame di ragazzi, non necessariamente tutti di Gomorra o tutti facenti parte di bande, ma che vanno allo stadio San Paolo, succederà domenica, no, per l'ultima partita, in due, in tre sugli scooter senza i caschi, perché fuori lo stadio se lasci lo scooter col casco poi il casco sparisce, e ci sono questi sciami. E beh, purtroppo quando vedo quelle ronde di Gomorra so che non è finzione. Grazie Enrico. 800240024, la riflessione parte da Enrico napoletano, naturalmente Scampia non è Napoli è una parte di Napoli, quello che viene rappresentato in Gomorra non è ascrivibile a un'intera città, a un'intera realtà. Però la prima testimonianza è che non si tratti di fiction, si tratti di una rappresentazione estremamente realistica della realtà. Una rappresentazione in cui non esiste nemmeno il concetto di antitesi tra bene e male. È una sorta di disputa interna tra vari gironi infernali che slavenano tra di loro per dividersi il territorio, in cui non c'è nemmeno l'ombra di un rappresentante della giustizia, dello Stato. Ci sono, ma è come se non ci fossero. È soltanto roba loro. 800 24 0024. Tu l'hai vista la fiction Gomorra? Certamente. Ti è piaciuta? Sì, a livello cinematografico sì. Molte cose corrispondono alla realtà, tipo quando preparano i pacchettini di droga, quando Don Pietro fa bere l'urina dal calice di champagne. Ma io non l'ho mai sentito una cosa del genere. Sono cose verità, ci sa, no? Cioè, non è vero proprio. E tutte ste armi si vedono qua in giro? No? Purtroppo sì, questo è vero. Specialmente quando è successo, diciamo, un po' di casino, anche tra l'erba c'erano nascoste le armi, nelle vele, nei buffi c'erano nascoste armi dappertutto. Queste sono interviste fatte tra la gente dal canale YouTube Panni Sporchi, e dicono più o meno, confermano quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io vorrei adesso questa mattina fare delle contrapposizioni fra reale e rappresentato, per vedere poi in effetti non tanto quanto sia iperrealistica questa fiction, e l'abbiamo già detto, ma quanto poi a sua volta possa, per una sorta di singolare fenomeno, rinfluenzare nuovamente gli usi, i costumi, i modi d'essere. Cioè i personaggi della vita reale che si vedono rappresentati in maniera così perfetta, così idealizzata, indubbiamente, perché anche se eroi negativi, eroi sono, perché sono i protagonisti di una fiction, quanto poi si sentono ancora di più nel personaggio, ancora di più affrancati e certificati per quello che sono. Simone Di Meo, buongiorno. Buongiorno a voi. Simone Di Meo è un giornalista, uno scrittore, ha scritto vari libri sulla Camorra, ne cito uno, L'impero della Camorra, la storia vera e violenta dell'ascesa al potere del boss dei boss, Newton Combo 2014, l'ultimo. Ci sono altri, Faida di Camorra, L'impero di Camorra, vita violenta del boss Paolo Di Lauro. Insomma, sei quello che nelle redazioni si dice un camorrologo, quelli che studiano e sa, e beh, noi nel mio giornale c'è il mafiologo, quello che è siciliano e si occupa di mafia, tu sei quello che sa tutto comunque, quello che diciamo ha una sorta di memoria storica. Innanzitutto la filologia è corretta, perfetta, è reale. Chi ha creato, chi ha scritto questo film e chi ha seguito anche nei particolari, è veramente capillare in ogni riproduzione? Sì, ci sono varie aree, varie zone in cui ovviamente si infiltra la fantasia degli sceneggiatori, ma credo che la piattaforma sia assolutamente reale, anche perché ritengo che poi il materiale che sia servito per elaborare la sceneggiatura sono le informative delle forze dell'ordine, e ho avuto conferma di questo ieri quando c'è stata la scena in cui Jenny, mi sembra fosse Jenny, sì, va a recuperare dei diamanti custoditi in una bottiglietta di plastica sottoterra. Questo è un passaggio che viene descritto bene, particolarmente bene, da un pentito che si chiama Maurizio Prestieri, braccio destro del boss Di Lauro, che prova a venderli, ma gli dice il ricettatore: valgono poco, non valgono niente, però erano, sì, tanti. Quello è fantasia, perché ovviamente si deve innestare il racconto, lo sviluppo narrativo, però l'elemento caratterizzante dei diamanti che vengono conservati sottoterra nelle bottiglie di plastica lo racconta Maurizio Prestieri, e questo evidentemente gli sceneggiatori lo hanno conosciuto e lo hanno elaborato, quindi la gran parte del copione è sicuramente attinente ai fatti. E poi dobbiamo comunque immaginare una contaminazione continua tra fiction e cronaca. Però questo diciamo, da un certo punto di vista mi lascia qualche perplessità. È un po' come quando si diceva che Visconti, per girare Il Gattopardo, mettesse nei cassetti del palazzo dei protagonisti dei tovagliati d'epoca, perché anche dentro i cassetti non si vedeva, doveva essere così. Cioè, questi particolari li sai te perché studi questa materia in maniera quotidiana, professionale, ma l'ascoltatore medio non avrà mai modo di saperlo, eppure questo coincide a creare realismo? Sì, coincide a fare realismo come nel caso della taglia da 150.000 euro messa sulla testa di Ciro. Di Ciro, e quello emerge chiaramente dall'inchiesta del 2004 sulla faida di Scampia, perché poi tutta la sceneggiatura, tutto il racconto, tutto lo storytelling di Gomorra si riconduce alla faida tra Di Lauro e gli scissionisti. Lo stesso Gianni Savastano è modellato con la creta sulla, praticamente sulle forme di Cosimo Di Lauro, quindi tutto più o meno si tiene. È chiaro che uno spettatore che abita lontano dalla campagna vede strabuzzando gli occhi queste scene e pensa che siano reali, in realtà lo sono, e se pensa che non sono reali si sbaglia. Altra cosa, mi ha colpito molto l'aspetto anche, diciamo, del look. Io ho letto recentemente un articolo su le mutazioni anche dell'aspetto esteriore da parte appunto dei giovani camorristi. Oggi si ispirano molto ai guerrieri dell'Isis, barbe da hipster. Perché? Perché per loro è il modello di cattiveria totale, spietatezza totale più tangibile che hanno in questo momento. C'è un'evoluzione rispetto anche alla prima serie in questo. Ho letto sui giornali sul taglio addirittura di Jenny Savastano, si è scritto, il taglio di capelli. Io il taglio di Gianni Savastano in realtà l'ho riscontrato poche volte nella, diciamo, raffigurazione classica dei baby camorristi. Probabilmente in questo c'è una contaminazione inversa. Ecco, pensa se da domani tu cominci a vedere per strada gente con quel taglio. Sì, ma quella è perché Gomorra è diventato un fenomeno pop. È diventata la sublimazione del quarto d'ora di Andy Warhol che viene concesso a tutti, anche ai camorristi, e i camorristi se lo stanno prendendo con tutti i rischi che ne derivano per chi ha una coscienza debole e immagina che realmente quella strada sia una possibilità di carriera. Non è la strada del crimine, quella viene vista nei rioni ghetto come una possibilità di carriera, e questo è il messaggio devastante che manda Gomorra. Fermo un attimo, 800 24 0024, mi fermo solo un istante per le informazioni della borsa, poi riprendo con il nostro ospite, ma anche un altro ospite che ci darà un punto di vista su un altro aspetto molto discusso di questa serie. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Melog, cronache meridiane. Suo marito c'era. E chi lo dice? Lo dico io. Solo perché con una vista un uomo senza capello fuori la sala. Signora Di Marzio, si sta difendendo dalle persone sbagliate. Spero per lei che lo capisca in tempo. Buona giornata. 800 24 0024, stiamo parlando della seconda serie di Gomorra, la fiction che sta andando in onda su Sky Atlantic, che fa molto discutere. È senza dubbio uno dei prodotti di maggior successo che sono stati realizzati in Italia, però il rovescio della medaglia, che tratta episodi, modi di essere, situazioni ambientali che ancora si producono, che sono prodotti, che sono una realtà in una parte del nostro paese. E in qualche maniera la fiction, che comunque deve avere massima libertà espressiva come ogni forma dell'esprimersi umano, però pone comunque delle riflessioni. Stiamo facendo le riflessioni con il nostro pubblico che ha seguito e visto la fiction. Molti mi accusano di aver fatto uno spoiler, ma spoiler intendo quando ancora non è andata in onda ieri, e ho detto una cosa che hanno tutti potuto vedere ieri. Se poi qualcuno si vuole vedere le repliche è un altro discorso, ma sto parlando di dati concreti, di una reazione immediata di un ascoltatore che secondo me valeva la pena di essere registrata. Un'altra degli aspetti di questa rappresentazione di una realtà che conosce molto bene chi la vive territorialmente, un po' meno chi la conosce soltanto per sentito dire, è la presenza delle donne. Io nella presentazione ufficiale, nei trailer di questa serie che ha preceduto la messa in onda, si è visto esaltare le figure delle donne. Le donne sono figure fantastiche. Indubbiamente nella prima serie la figura di Imma Savastano, la moglie del boss, la madre del boss nascente, anche lei, questo non è spoiler, finita morta ammazzata, era una figura chiave. Anche in questa seconda serie ci sono delle figure emergenti, le figure che si faranno via via strada, di cui si avrà via via modo di conoscere la realtà. In particolare c'è una delle tante capesse dei vari gruppi riorganizzati, che è sorella di un camorrista ammazzato, che pare, ancora non si è vista bene, soltanto accennata, che farà parlare molto di sé. Titti Beneduce, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. Titti Beneduce, una giornalista al Corriere del Mezzogiorno che si occupa anche lei principalmente di cronaca giudiziaria su Napoli. Ecco, su questa sorta di mitizzazione delle donne protagoniste, indubbiamente bei personaggi, ma io le classificherei in due grossi filoni: quelle che comandano, quelle che hanno un ruolo di privilegio, e quelle totalmente stupide, totalmente soggiogate comunque ai loro uomini. È una realtà realmente realistica anche questa, o diciamo la fiction ha dovuto creare e lavorare anche su personaggi femminili di fantasia? No, direi che anche questo è assolutamente realistico, per come emerge dalle carte delle inchieste giudiziarie che ogni giorno mi capita di leggere. Ci sono figure femminili molto forti, agguerrite, ci sono figure assolutamente fragili come la povera Deb, che non reggono uno stress e un'angoscia perenni. E ancora l'altro giorno è stata arrestata una donna che, come abbiamo capito dalle intercettazioni, incitava il figlio a massacrare, a vendicare il patrigno, a usare armi, a pagare killer. Insomma, è tutto assolutamente fedele alla realtà. Quindi anche tu mi confermi quello che ha detto poco fa anche il collega Simone Di Meo, che questa è una sceneggiatura scritta realmente sui rapporti di polizia, guarda, sugli atti giudiziari. Adesso ti dico il mio punto di vista. Per quanto riguarda le trame, i personaggi, il look, le location, è tutto perfetto. È così come leggiamo nelle carte. L'unica sbavatura dal mio punto di vista, per quanto riguarda il secondo episodio di ieri, è stato il fatto che in Honduras parlasse uno spagnolo fluente e con accento americano. Ma sai che l'ho notato anch'io? L'ho notato anch'io. Noi leggiamo le loro intercettazioni anche quando parlano con complici che sono all'estero, con complici stranieri. Questi a stento parlano l'italiano, figurati se possono parlare una lingua straniera. Ti faccio un esempio concreto: i nostri ascoltatori ricorderanno Jane La Carogna, quello dello Stadio Olimpico, eccetera. È stato arrestato nei mesi scorsi per traffico internazionale di stupefacenti. C'erano le intercettazioni, lui e i complici che parlavano con olandesi trafficanti, ma a stento dicevano dei monosillabi. Quindi su questo forse ieri hanno un po' lavorato di fantasia, però è l'unica cosa su tutto il complesso. Lo sai che l'ho notato? Io da vecchio ispanista dico, ma possibile questo? Ha imparato a parlare uno spagnolo che nemmeno l'italiano sa parlare in questa maniera. Bravo, perché io parlo spagnolo, ma ovviamente lo parlo con un accento che è italiano. Chi mi ascolta ed è spagnolo di madrelingua lo sa. Quindi mi ha colpito che un camorrista, ignorante, rotto, perché così è nella realtà, così sono i Di Lauro nella realtà, parlasse uno spagnolo più raffinato, fluente, ecco. Addirittura proprio familiare. Invece sul fatto che lui dia una lezione di spietatezza e di strategia al narcotrafficante, che dovrebbe saperne più non di lui. Non le fanno queste cose, le fanno, sono barbari, Gianluca, sono barbari. Più barbaro ancora del narcotrafficante. Non voglio fare lo spoiler, ma fa una cosa totalmente atroce, forse la scena più atroce di tutta la fiction. Qui massacrano le persone, le massacrano a sangue freddo, le massacrano guardandole negli occhi, le massacrano dopo averle insultate e chiamate per nome, massacrano amici con i quali avevano condiviso la vita fino al giorno prima, e poi se ne compiacciono e ne ridono, e noi lo sentiamo dalle intercettazioni. Quindi dell'orrore non ti devi stupire, della crudeltà non ti devi stupire, anche questo è vero. Sì, c'è una famosa intercettazione, non sono diciamo dello stesso ramo di cui ti occupi te, in cui parlavano di dar da mangiare maiali a una persona e descrivevano nei particolari come avviene che questo strilla, il maiale se lo mangia un po' per volta, e ci ridevano sopra come fosse una barzelletta. Allora, questo fatto dei maiali risale a un'epoca, anni 70, quando esisteva ancora la campagna, quando la camorra era ancora una camorra agricola, va bene? Si diceva che uno dei sistemi più politici, tra virgolette, per far sparire per sempre una persona fosse quello di darla in pasto a maiali affamati. Ovviamente era un altro contesto sociale, c'erano masserie con allevamenti di maiali, eccetera. Oggi questo non è più possibile, si usano altri sistemi, però anche qui si sono ispirati alla realtà. Qua vedo che almeno in questa fase, quando fanno un loro atto di giustizia, poi danno fuoco, danno sempre fuoco all'automobile con la persona dentro. È il gesto finale, comunque in qualche maniera cancella qualcosa, ma però deve rimanere qualcosa per dare il segno che l'azione è stata fatta. Francesca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per avermi dato la possibilità. Volevo dire, io ho apprezzato tantissimo la prima serie, anche in famiglia l'abbiamo apprezzata, aspettiamo le puntate, anche questa che sta cominciando. Mi sono un po' ribellata a questa cosa, perché soprattutto per un fatto estetico, però fondamentale, e mi sembra che sia stata data bellezza a un contesto che non ha, che non conosce bellezza, soprattutto i personaggi. Diciamo, gli attori sono bellissimi, i contesti sono quello che sono e sono molto realistici. Bellissimi, che Jenny sia bellissimo, molto... io rispetto i canoni estetici di ogni mia ascoltatrice, ma è un buzzicone animalesco, cosa c'ha di bello? A lei piace? Può essere, è giustamente un buzzicone unto e animalesco, però io ho visto... diciamo di passaggio anche i personaggi reali, in realtà c'è un che di malato, di corroso, di deformato nelle persone reali, che fa veramente senso. Non è il fatto di essere grasso, è il fatto proprio che i camorristi reali, anche i mafiosi, sono rivoltanti come persone, quindi ci si è avvicinato di più il film Gomorra. Che erano veramente realistici. Sentiamo, Titi Beneduce, scusa se ti convoco su questo tipo di lettura che farebbe pensare a categorie estetiche femminili nei confronti degli uomini, ma è giusto che lo dice l'ascoltatrice, che hanno fatto una cosmesi in bello comunque dei personaggi, alla fine sono puliti, ben vestiti, ben organizzati, tutti pettinati, tutti con le barbette rifinite, sembrano a punta di forbice. No, io non sono d'accordo, secondo me l'estetica non c'entra assolutamente nulla, questi sono uomini di potere che maneggiano tanti soldi e questo è il loro fascino, possono offrire a una donna quello che molto difficilmente potrebbe offrirle uno che facesse un lavoro qualunque, maneggiano una quantità enorme di soldi, hanno auto importanti, possono fare regali importanti e per questo secondo me hanno seguito tra le donne. E non a caso il film Gomorra, se non ricordo male, inizia proprio in un centro estetico dove viene giustiziato un boss mentre si fa i raggi uva, quindi mi sì, pare sì, che anche sì, poi l'estetica hanno la curino. Certo. Denaro, possono permettersi anche trattamenti sofisticati. Ci terranno anche loro di fare quello che la gente danarosa nei loro parametri fa. 800 24 0024. Ci fermiamo solo un istante. Melog. Cronache meridiane. Stiamo analizzando la fiction Gomorra, seconda stagione, e stiamo realizzando che in realtà, mettendo in scena la forma più bieca della spietatezza che può rappresentare la nostra realtà nazionale, abbiamo fatto un bel colpo, abbiamo fatto la fiction che più ha successo all'estero. Se questo sia un bene o un male non sta a noi dirlo, ma è una realtà di fatto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ciao Gianluca, grazie di avermi abbassa un po' il volume e tutto. Sì. Dimmi. Abbiamo centrato Gianluca, abbiamo centrato. Io sono un po' contrario per questa fiction che è stata fatta Gianluca, perché dà un esempio dell'immagine di Napoli, della realtà, perché sono dei quartieri un po', diciamo, balordi, no? Come Scampia, come la Sanità, come Forcella. Sono i quartieri dove si è radicato bene bene il mare, capito? Quindi cosa succede? Succede che uno non ha più le possibilità di vivere, insomma, ecco. E diciamo, mettiamola su questo piano qui, quindi è un'immagine che non condivido tanto. Condivido, sì, mi rendo conto che viverci accanto è come sentirsi gli occhi addosso, però anche in questo secondo me vanno fatti distinguo. Il principio non deve essere quello, gettate fango sull'intera Campania, sull'intera città di Napoli, è solo una realtà territoriale. Questa realtà c'è, non è tanto il problema quanto ne escano bene o male i napoletani, perché è una questione di capacità e sensibilità di giudizio critico da parte di chi ascolta. Io penso che nessuno... è fatta talmente bene, è talmente settoriale, talmente specifica, che nessuno fa di ogni erba un fascio. Tutti hanno la perfetta consapevolezza, come in un videogame, che il livello in cui si svolge questa azione è un livello ben preciso e ben circoscritto. Mario, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Volevo dire la mia, nel senso che questo tipo di trasmissioni sono secondo me deleterie, perché enfatizzano degli aspetti della delinquenza che secondo me non andrebbero in qualche modo mitizzati. Si manda un messaggio sbagliato a chi guarda e chi poi cerca di emulare queste persone, succederà. Presumo che siano diventati quasi degli eroi in un certo ambito. E poi soprattutto queste fiction, secondo me, poi fanno diventare quasi normale quello che non è. Cioè, noi siamo, il nostro paese sta per essere, se non è già stato, fagocitato da questa realtà. Cioè, purtroppo la mafia condiziona la vita di questo paese, la camorra, la 'ndrangheta, e noi non facciamo altro che dare un'immagine del nostro paese reale, forse, ma che comunque ci rovina, ci distrugge in tutti i modi, in tutte le maniere. Quindi cercare con questa maniacalità nell'andare a cercare il particolare, nel renderlo sempre più reale, non fa del bene a questo paese, non fa del bene alla Campania, non fa del bene a nessuno. È semplicemente una scelta commerciale che rende, ma che secondo me è deleteria. Fa del bene a chi lo produce, questo poco ma sicuro. Allora, Simone Di Meo, ricordo, giornalista, scrittore, ha scritto diversi libri sulla camorra. Vorrei capire da te e poi anche dalla collega Titti Beneduce, che avete, diciamo, le mani in pasta più di ogni altro in questo momento, senza trarre dei giudizi di tipo etico, morale, tutto, chi fa fiction ha diritto di rappresentare quello che in quel momento, secondo la sua sensibilità, è degno di essere rappresentato o vada rappresentato, e lo rappresenta in questo punto, da questo punto di vista mi sembra in maniera inoppugnabile, si basano addirittura su quelli che sono gli atti giudiziari, più precisi di così è difficile esserlo, però l'operazione in sé, alla fine, nei suoi effetti, nella sua generalità, obiettivamente richiama l'idea, non come dice il nostro ascoltatore, su quello che ci circonda dal punto di vista di mentalità mafiosa, anzi esattamente il contrario. Tutti gli osservatori dicono che la vera mafia è la mafia che non si vede, la mafia invisibile, è la mafia che ormai è arrivato ai livelli alti del potere economico, del potere politico, è la demafiozizzazione, scusate il termine, dei mafiosi, sono quelli trasparenti che non si vedono più. Qua invece ci ricorda che esiste ancora una bassa manovalanza, esiste ancora la categoria dei macellai che ancora ben opera su certi territori. Sì, ma questo è indubbio il problema, al di là poi delle valutazioni artistiche, perché non si può assolutamente parlare di censura nei confronti di una fiction che è fatta molto bene e che tra l'altro poi ha anche l'avallo o comunque la condiscendenza delle forze dell'ordine e della magistratura. Basterebbe pensare a tutte le carte che i PM passano ai sceneggiatori, dovrebbe però mettere un punto di vista che sia anche di speranza, perché vedere Don Pietro Savastano liberato con un assalto sull'autostrada da parte dei suoi sicari, dei suoi killer che ammazzano i carabinieri, adesso non ricordo, le forze dell'ordine che lo stavano scortando, è un messaggio abbastanza forte, perché significa che lo Stato non solo è assente, ma nel momento in cui si presenta con l'avamposto di legalità delle forze dell'ordine è completamente umiliato da un raid che ci ricorda più gli assalti delle truppe latinoamericane, dei narcos latinoamericani, che quelli di casa nostra. Fortunatamente queste cose alle nostre latitudini non si sono mai verificate, però sarà interessante capire se gli sceneggiatori a questo punto nella seconda serie recupereranno terreno. Siccome ho solo un minuto, sento Titti Beneduccio, anche il tuo punto di vista, proprio da persona che conosce la materia. Ha detto Di Meo che sicuramente c'è una collaborazione attiva e quindi fiancheggiamento attivo alla produzione da parte delle forze dell'ordine e dei magistrati. Sei d'accordo anche te su questo? Ma in linea di massima sì, ripensando a quello che dicevi tu prima, io credo che siano sì i livelli di camorra, di mafia, certo ci sono i colletti bianchi, ma ci sono anche i macellai, persone che magari si illudono come Ciro ieri di avere raggiunto finalmente l'obiettivo, di avere sconfitto i rivali, in realtà poi è un successo effimero e che viene anche pagato a caro prezzo. E quindi questo, diciamo, ci ricorda questo tipo di realtà, ma ci torneremo perché vedo che gli ascoltatori su questo tema vogliono dire ancora la loro. A presto.